Una buona sera, anzi una buona notte, probabilmente più duopo come faccenda. 451 frammenti sonori riparte anche quest'anno, e quindi un saluto da Eliseo Scarpa e Max Macchia. Infatti la sorpresa è un po' questa, la nostra. Sì, beh, noi siamo sempre stanotte sorprendenti, no? Anche quando non vogliamo. Anche quando non ci siamo. Soprattutto quando non ci siamo. Siamo sorprendenti. Sì, ovviamente gli ascoltatori di Radio Fujiko hanno sentito praticamente solo la tua voce in 451, diciamo, della stagione scorsa. Sì, ma ti ho rimandato spesso. Lo so. C'era il tuo fantasma che aleggiava negli studi, un po' inquietante. Sì. Con lenzuolo bianco un po' sporco, anche. Ma no, vabbè, però, un po' formaggino, ti ricordi? Un po' il fantasmino formaggino, sì, famosissimo. Quello che ti spalmo sul panino. Sì, quando mangiavo il formaggino da piccola, effettivamente è vero. Comunque siamo ritornati, diciamo, in questa puntata di apertura della nuova stagione di 451 frammenti sonori in coppia, come abbiamo anche aperto la stagione del nuovo spazio, che così ricordiamo, no? Anche agli ascoltatori, di 451 intersezioni lunedì scorso. Siamo appunto andati entrambe in diretta insieme per la puntata di 451 intersezioni, che chiaramente porta avanti un filo rosso, almeno un percorso di memoria verso il futuro, collegandoci alla vecchia trasmissione appunto Intersezioni, inediti live e intersezioni di Pier Antonio Pezzinga, che vogliamo continuare a ricordare attraverso un percorso sonoro, ovviamente declinato a nostro modo, per mantenere appunto questo collegamento con questo grande amico e compagno che purtroppo è scomparso il marzo scorso. E oggi apriremo insieme, poi invece nel corso di questo anno qualche volta staremo insieme, qualche volta condurremo individualmente i due spazi alternativamente, dunque avrete anche questa sorpresa di sentire uno, due voci, forse anche nessuna voce, non si sa, 10 voci anche. Oddio, 10 voci, 15 voci sarebbe pure bello, no? Sarebbe facciamo una dimensione un coro, sì, anche collettiva, chissà, no? No, facciamo proprio il coro di 451. Il coro di 451 potremmo lanciarlo anche dopo i vari cori, anche noi ci lanciamo al corale. Dal collettivo al corale, ecco, dal collettivo che non sia corale. Anche un passaggio storico, chissà, un momento, può anche essere, che ne so. L'importante è che andiamo verso la comunione, perché sennò poi lì, o verso gli scout che ricordano quelle comunioni, quel bel personaggetto che ci sta devastando, che sta quello lì, il riferimento degli scout, col caro, vabbè, ma ne fate tanto, il caro Pinocchio, dove era pure di anche Collodi, la cosa lì, ok, prezzo giusto, infatti, cos'è? Sì, da Mac Buongiorno, quindi magari se lo può giocare anche bene, perché dice, beh, Mac Buongiorno, insomma, un grande della televisione, certo. E beh, d'altronde qua giochiamo con gli echi del passato, grande assist, che hai dato, quasi calcistico. Bravo. Sì, effettivamente stasera apriremo questa nuova stagione con questo tema che abbiamo elaborato, echi dal passato, che sarà mai? In realtà niente di particolarmente strano, ma fondamentalmente un discorso che richiama ovviamente al passato sonoro, musicale, storico e non solo. E dunque il percorso che stasera cercheremo di portare in porto è quello di un viaggio attraverso materiali sonori e produzioni degli ultimi 2-3 anni, dunque estremamente recenti, che però hanno un richiamo sia esplicito attraverso una sorta di campionamento di vecchi materiali sonori del passato, dagli anni 40-50, l'sperimentazione elettronica, la contemporanea, ma anche rimandi a una certa musica anni 70-80, che ha caratterizzato ad esempio molte colonne sonore di film di fantascienza, o anche, qui ci sarà la sorpresa interessante, materiali sonori attuali che rimandano a un passato proprio personale, individuale, degli anni 90, e qui chiudiamo lì perché sennò vi sveliamo l'arcano. Dunque un percorso che attraverserà questo spazio sonoro, e chissà mai che questi echi del passato in una prossima puntata, in una prossima trasmissione, possono essere addirittura degli echi. Qui giocheremo proprio in termini di concetti, di parole, di terminologie, con il futuro, echi dal futuro, dagli echi del passato. Sì, una sorta di paradosso che anche questa sera un po' utilizzeremo. È chiaro che l'eco come effetto di rimando è chiaro che è dato da un momento passato, un momento sonoro, e iniziando appunto con Jack, Philip Jack, che insomma conosce più o meno 451 frammenti sonori e sa che amiamo molto, un personaggio che della memoria ha fatto un canale privilegiato, mai diventando insomma stucchevole, anzi utilizzando la memoria in una chiave piuttosto creativa, se non originale per molti passaggi, ma proprio anche seminando quel gusto del tarnablism legato appunto all'utilizzo dei vecchi vinili e appunto rimandi sonori, echi che vanno poi a confondersi anche con appunto una sperimentazione sul suono, che quindi quasi veramente in maniera paradossale tolgono quell'aurea di passato e diventano una sorta di atemporalità, di sospensione. Forse i momenti proprio migliori di Jack sono questi. Abbiamo preso un disco che è Anarch for the Listener, e anche qua c'è l'idea della memoria, l'arca. L'arca per l'ascoltatore. Dunque un'arca ovviamente immaginata da Philip Jack, un ipotetico diluvio universale dove appunto possa essere una sorta di salvezza per l'ascoltatore. Disco uscito nel 2011, uscito oltretutto per una importante etichetta come la Touch Records, e dunque direi che abbiamo selezionato due tracce per farci il nostro viaggio, tra cui una delle due è proprio l'Arc. lavoro decisamente ispirato, questo qua di Jack, che da un po' che non si fa sentire, perlomeno per quanto riguarda lavori solisti. Sta facendo varie collaborazioni anche interessanti, però diciamo che non torna, insomma, con proprio nome dal 2011, appunto, dal 2010, quando uscì per la Touch Record questo lavoro, appunto, dedicato a un'idea probabilmente da sempre nelle corde di Jack, quella dell'arca, cioè quasi una così una riflessione su quello che è la memoria e su quello che è anche, appunto, il suono che comporta questa memoria storica, e non solo quella, perché poi, se andiamo a pensare, insomma, a tutte le sperimentazioni legate al suono, appunto, di Jack, si va a trovare una astoricità, una senza storia, e appunto quasi a ritrovare momenti protostorici o insomma quasi para non religiosi, perché insomma l'arca è chiaro che ci porta, insomma, al discorso biblico, ma sicuramente ci porta quasi a una sorta di mito, se vogliamo, di un suono ancestrale, di una ricerca che comunque Jack compie anche su quelle materie sonore sfuggenti, che appunto hanno quasi questo risvolto psicologico, in questo senso gli echi della memoria si affastellano, quasi si stratificano, creando una grande momento sonoro di grande anche emotività, ecco, in questo senso sì, la riflessione psicologica, ma anche, appunto, un lirismo, una poetica molto accesa per quanto riguarda, appunto, tutto il lavoro di Jack, più o meno ispirato. Senz'altro An Ark for Listener è uno dei dischi che maggiormente ispirato molti, anche come il personaggio che metteremo tra pochissimo, proprio su questo quasi viatico psicologico che c'è sulle musiche, sul trattamento, appunto, della memoria, delle memorie, perché poi, appunto, si diventano plurime, articolate, multiple, sia quelle di Jack che quelle di Caretaker. E infatti l'hai già notato, l'hai già indicato, il grande personaggio di Jim Kirby, che poi si è fatto, diciamo, vari progetti in casa sua, insomma, fatti in casa nel corso degli anni, si è chiamato in varie maniere, famoso soprattutto il progetto iniziale di WWM, che oltretutto in passato, come 451 frammenti sonori, l'abbiamo anche inserito in una scaletta di trasmissione, e poi come progetto The Caretaker è iniziato fondamentalmente nel 1999 con il primo lavoro, che oltretutto è stato prodotto da esso stesso con l'etichetta WWM Test Records, che lui stesso ha fondato richiamandosi al progetto precedente, e il disco che andiamo ad ascoltare è chiaramente legatissimo al discorso del passato, ma in un'ottica ovviamente sempre sperimentale e futurista e futura da parte di questo genio assolutamente eclettico di Kirby. Il disco è Extra Patience After Sebold, un lavoro uscito nel 2012, l'ultimo lavoro che concomitante oltretutto con il disco chiamato Patience After Sebold, dunque c'è questa piccola differenza tra extra e non extra, e il disco lavora come vera e propria colonna sonora di un film documentario che è stato realizzato appunto nel 2012, che ha lo stesso titolo dell'album, che è la storia di uno scrittore nato nel 1944 e morto nel 2001. Scusate, il rospo è uscito. W.G. Sebold, che è stato molto importante nell'ambito della scrittura, dei romanzi, ma anche per le sperimentazioni artistiche e quasi personali di questo scrittore, è stato costruito questo documentario con vari registi che hanno partecipato, e la colonna sonora è stata realizzata proprio da The Caretaker. Il lavoro che ascolteremo adesso sono praticamente due tracce estratte dall'album, legato appunto al film, e si muoverà in questo chiaro rimando a, a strutture sonore che vanno proprio a riprendere parti e esecuzioni liriche con questa voce che poi viene trattata dal passato, e si sente poi il classico vinile, vecchio vinile con i vari scratch nel passaggio, dallo stesso Kirby che lo manipola e crea queste voci che appunto ricordano gli echi dal passato da parte appunto di questo tenore, ma poi lo tratta in maniera assurda, ovviamente rallentandolo, velocizzandolo, costruendo praticamente delle manipolazioni sonore sulla voce stessa all'interno di uno scenario sonoro ambientale con delle forti venature anche dark all'interno appunto del percorso sonoro. Sicuramente sarebbe anche da vedere e da esplorare il filmato, il film, che sicuramente cercheremo di trovare in qualche maniera. Intanto un altro viaggio dunque attraverso Kirby the Caretaker dall'album Extra Patience After Sebold. Sopra questa voce assurda manipolata da Kirby, The Caretaker, andiamo appunto ancora a esplicitare il percorso sonoro di Kirby all'interno ovviamente di questa colonna sonora vera e propria di questo documentario, di questa storia relativa allo scrittore Sebold, ricordiamo ancora, nato nel 1944 e morto nel 2001. E appunto la cosa interessante è che moltissimi filmmakers e artisti, ad esempio come Adam Phillips, Robert McFarlane, Rick Moody, Tacita Dean e tanti altri, hanno praticamente costruito un vero e proprio collettivo dove appunto hanno realizzato insieme questa opera filmica, questo racconto, con il racconto sonoro del grande Caretaker, con la sua solita maestria, con la sua solita genialità e assurdità, con questo rimando molto forte. Questi echi sono sicuramente marcati da parte di Kirby nel passato sonoro, in questo caso in questo vinile vecchio, che viene appunto anche trattato in termini di suono e di tempo e di struttura, come spesso ha fatto anche nel passato The Caretaker, come progetto di recupero e quasi immaginazione futura attraverso echi dal passato. E da Kirby ci andiamo a spostare anche in maniera piuttosto importante attraverso un personaggio che insomma credo molti conoscano. Sì, tra l'altro personaggio anche molto caro a Caretaker, ovvero a Jim Kirby, personaggio che è stato parodiato in un disco proprio di WWM, quando insomma Kirby era più vicino a un'idea dada terroristica del suono e anche del concetto artistico della fruizione che si poteva avere nella musica di Aphex Twin, così svegliamo anche quello che è appunto quello che prima consideravi arcano, chissà, magari molti lo considerano arcano, secondo me infatti hanno sbagliato anche parecchio il tiro a questo giro, perché non è affatto arcano Aphex, anzi in questo disco è proprio umano e come dire torna sui suoi passi. Gli echi del passato a questo punto sono quasi autoreferenziali, se con Jack e Caretaker abbiamo trovato insomma una memoria sonora, storica, importante e stratificata, qua invece è quasi un Aphex Twin che nell'ultimo periodo, in questo ultimo periodo che è ben 13 anni comporta, quindi insomma un periodo bello lungo come ultimo, e rilegge se stesso, un disco decisamente dimesso, è una cosa insomma che ha fatto anche molto discutere, insomma anche criticare in maniera negativa il disco. In realtà se poi andiamo a vedere insomma anche le opere non riuscite degli autori, hanno sempre Aphex Twin è un grande autore di musiche elettroniche soprattutto negli anni 90, uno dei personaggi, insomma, di riferimento per tante faccende sonore che possono andare da techno all'IDM, quindi a tutta l'intelligence dance music, fino a risvolti ambientali, suoi amori per Satie, che tra l'altro nel disco chiude anche con questo Siro, proprio con un omaggio a Satie, che potrebbe anche essere una sorta di parodia, ma in realtà appunto l'umanità così scoperta, così volutamente denudata di Aphex in questo disco ci porta infatti non all'Aphex parodico, quello che, oppure sperimentale di Ambient Work 2, o quello assurdista di certe drill and bass, di certi momenti anche di decostruzione della house, ad esempio se pensiamo a Window Licker, seppur rimandi in questo senso ci sono, il suono è senz'altro più dolce, qualcuno l'ha definito anche fusion, ma poi in realtà insomma è un eco personale, e forse sono dischi che probabilmente uno potrebbe anche non far uscire. La fascinazione sta proprio forse proprio in questo, in questa uscita appunto scoperta, forse anche minore, e anche con la grande colpa di farlo uscire, consideriamola tale, dopo 13 anni, quindi con un'attesa spasmodica. Però faccio questa domandina così un po' provocatoria: e se Outtakers si fossero bloccati per qualche anno, infatti non sarebbe stato forse un po' meglio? Sono d'accordo con te, è una provocazione, però tant'è che insomma come tale ci sembra adeguata insomma per ascoltare appunto l'ultimo di Aphex Twin. Reaching out. Thank you.